Il ferro battuto. C. Ascolta il testo. L'artigianato del ferro battuto comincia a diffondersi in Italia già in epoca medievale. In Umbria, testimonianze antiche ed attuali si notano ovunque. Nel Duomo di Perugia, dove ci sono opere artistiche del passato, a Gubbio, che è oggi un vivace centro produttivo della regione, e a Orvieto, dove è ancora possibile trovare nelle botteghe della città una varietà di oggetti di uso quotidiano realizzati in ferro. Anche se la lavorazione industriale ha condizionato il mestiere artigianale, ancora oggi sono attive numerose botteghe dove i fabbri artigiani forgiano il ferro secondo le tecniche tradizionali.